Però, in un paese che non mi ricordo, c'era una volta un re che era riuscito a mettere tutto il popolo d'accordo e a unirlo in un medesimo partito, che era quello monarchico, per cui era lo stesso che voleva lui. Quando nasceva un suddito, il governo gli levava una ghiandola speciale per aggiustargli il sentimento interno secondo la coscienza nazionale, in modo che crescesse nell'idea, come un cocchiere porta una livrea. Se cercavi un anarchico, domani, ma che, non ne trovavi più nessuno, né socialisti, né repubblicani, manco a pagarli 1.000 lire l'uno, qualunque scampoletto d'opinione era venuto a prezzo d'occasione. Per questo in quel paese che vi ho detto vivevano così che era un piacere, senza un tiretellà, senza un dispetto, ammaestrati tutti d'un parere. Chi la pensava differentemente passava per un fenomeno vivente. Il popolo ogni sera si riuniva sotto la reggia per vedere il sovrano che apriva la finestra fra le viva, che s'affacciava tra gli sbatti mano, fino a che non piava la parola come parlasse a una persona sola. Popolo, gli diceva, come stai? E tutto quanto il popolo de sotto gli rispondeva in coro, bene, assai, ci pare d'aver vinto un terno all'otto. E il re contento, dopo avergli detto qualche altra cosa, li mandava a letto. Eccete che una sera il re gli chiese, siete d'accordo tutti quanti? E allora da 100.000 bocche non si intese che un sì allungato che durò mezz'ora. Solamente un ometto scantonò e appena detto sì disse però. Vi immaginate quello che successe? Bisogna bastonarlo, urlò la folla. Le indecisioni non sono più permesse, se no ricominciamo il tiro a molla. Lasciate che mi spieghi e poi vedremo, disse l'ometto che non era scemo. Defatti, appena il re ci ha domandato se eravamo d'accordo, gli ho risposto nel modo che avevamo combinato. Ma un buon amico che ci avevo accosto, per farse largo, proprio in quel momento, mi ha acciaccato li calli a tradimento. Io dunque non ho fatto una protesta. Quel però, che mi è uscito in buona fede, più che un pensiero che ci avevo in testa, era un dolore che sentivo al piede. Però, dicevo, è inutile se poi se pistiamo li calli fra di noi. Quando per ambizione o per guadagno uno non guarda più dove cammina e monta sui galli del compagno, va tutto a danno della disciplina. Fu allora che la folla, persuasa, disse, vabbè, però statene a casa. In questa giungla di là, un'altra Radio Roma, emerge. La televisione, sei in punizione. Per questo mese niente computer, niente PlayStation, niente DS, niente PDL, niente PD e niente televisione. E la radio? La radio? Solo? Un'altra Radio Roma. Solo Narra Radio Roma. Un caloroso ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'è il turno, ciao, Gasperino. Il turno di che cosa? Il turno del suo podcast. Podcast, perché podcast, qui in Altra Radio Roma podcast, è sempre alla ricerca di artisti fantastici, di mondi diversi per scoprire podcast, musica che puoi scaricare legalmente. Sono anni che ve lo ripetiamo. Sono anni che ve lo ripetiamo. Sono anni che ve lo ripetiamo. Il sitarello che sono andato a spucciare per tutti quanti noi è un sitarello veramente figo, dove troverete una fracca di Seduce è la prima formazione che andiamo a scoprire, un quartetto di Londra che presenta un rock veramente diverso, un rock frizzante, un rock veramente rilassante. Buon ascolto e subitamente, subitassimissimamente, subitatarabilevolemente, subitarmente, dopo... La seconda band che ci andiamo ad ascoltare. Questa band ha calcato i palcoscenici degli anni 80 e 90. Il brano Insane. Woke up this morning with a stranger in my bed. My friends warned me about him, but I took him home instead. Don't know about you, but I'm so tired of being good. I'm gonna live my own life, let that be understood. Independence has never been my game. Now it's my time to go completely insane. Tomorrow I'll have a new attitude. Took me to the place that I never thought it could. Oh, yeah. prossima formazione che vi vado a presentare dal sito My Music Stream è una formazione che fa del crossover l'arma principale della band. Il nome è Top Johnny. Si uniscono insieme nel 2005 e producono due EP. Ricevono diversi riconoscimenti e questo è il loro lavoro. Top Johnny, High intensity party. Rock the nation, rise to the call. Break down the wall, not just survive. Be alive, swing the beat. Take it to the street with a whole lot of flavor. Some for your neighbor. Hip hop intensity with the A number one positive MC. With the wall sound and the speed of light, we're gonna rock this brother till we get it right. H-I-P-L-O-V-E. People, can you dig this? Can I get a witness? High intensity, party. Hip, high, H-I-P. High intensity, high intensity. Gonna take it to your face at the T-O-P. High intensity, party. Top Johnny on the mic, Alpha MC. High intensity, high intensity. We go, we go. Party. High intensity. We go, we go. We are a lean machine, paying dues to the tree, pumping to the max, staying on the scene. Flash like lightning, roll like thunder. Fire to the world, you make me wonder. Beat positive is how I'm wired to be. No, I don't get off of negativity. I shoot from the hip cause I'm in the zone. The truth is gonna rock to the core. These rhymes are the definition of power. Rise up, take a shower. Roll with the punches if you want to live. So come on, come on with Simon. We take it to your place at the T.O.P. High intensity party. Top Johnny on the mic, Alpha MC. High intensity, high intensity. We go, we go. Come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favo l'Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto de male? Sta creatura manca a dirlo, ma io? Io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amor dei padri è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete persuasi. No, ma che fate? No, ragazzi, no! Gonna stop harassing my ass, lying and cheating and blocking my path. You're the minister of sinister, the preacher of bane. To devour is the power you desire to obtain. When you gonna stop banging on my door, huffing and puffing like Babylon's whore? You apostle of duplicity, disciple of deceit. To proportion by extortion is your favorite treat. Possession. That goal is your obsession. You don't play fair, you use sedition. You proudly boast supremacy and drink a toast to tyranny. You love possession. Gonna stop dissing on my name, ranting and raving and stoking up the flame. You derider of integrity, destroyer of the truth. Desolation is your idol with the devil as your proof. When you gonna stop getting in my face, pushing and shoving, always nicking my space? You purveyor of mendacity and servant of the snake, a champion of evil for its very own sake. Possession. Your pride of place is no concession. Without a care, you requisition. To seek despair is your delight. Control and snare my will to fight. You love possession. Of your aggression that you embrace for your attrition, consume and feed without respite. Your strength is greed, not wrong or right. You love possession. Like every beast, you must consume a total feast and call the tune. You love possession. Possession. To reach that goal is your... E già, continuiamo così in questo fantastico mondo che stiamo scoprendo insieme. Il mondo My Music Stream. L'artista che abbiamo poc'anzi ascoltato era Donny Marchand con Possession. Adesso stiamo entrando nel mondo italiano, perché questa artista che vi sto per presentare è Christine Place Viola, che ci presenta un modo nuovo di far musica. Admire a New Demise. Ascoltiamocela. Ascoltiamocela. have three more steps and then a long one. Thank you. E siamo così giunti alla metà del percorso che stiamo facendo in questo nuovissimo mondo di My Music Stream. Questo è il nostro modo di farvi conoscere gli artisti, scoprire dei siti nuovi dove potete andare a cercare le sonorità che più vi emozionano e più vi piacciono. E l'artista che stiamo per scoprire è un artista che viene direttamente dalla Svezia, si ispira a tutto ciò che gli provoca una reazione, insomma qualcosa che gli dà un'emozione, che tocca il cuore. Scrive nei suoi social network che è appassionato dei Metallica, di Bob Seger, di Creed, di Elton John. E noi ci andiamo ad ascoltare Carina Schultz con Losing Ground. Adepti e adepti, possiamo incominciare un'altra Radio Roma. Sugli social. Podcastista. Un'altra Radio Roma. Sugli social. Un'altra Radio Roma. Podcastesimo. Nuova religione. Podcastesimo. Una religione e un mumico. Sugli social. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piazza. Ma no, sei cretino. Continuiamo in questo sitarello e abbiamo trovato una nuova formazione che risponde al nome di Man With No Image. Musica eclettica nella new wave, dance, pop e rock. Andiamoli a scoprire insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Insieme. Yeah, that's all that we did. Let somebody come and tell. us away. Just the memory of those runaround days. I hope you find the going easy. I think about you constantly. And the strange girl has been captured. Give the heart to a family. Then I could take me away, take me back to one of those runaround days. I don't find the going easy. I think about you in my dreams. And a strange girl has been captured. Give the heart to a family man. And a change boy has been grounded in the heart of a foreign. Continuando spediti come dei treni in questo viaggio immaginario, colpiti dalle figure che attraversano il vetro riflesso del nostro vagone, veniamo investiti da un'immagine alquanto bizzarra, allegra e fantasiosa. Rimaniamo affascinati e ci troviamo nel mondo di Spider Monkey con Fool for Fool. My Music Stream! Whatever you want me to. ascoltare in questo fantastico sito che, vi ripeto, si chiama My Music Stream, troviamo un artista che si chiama Lotus Theater. L'unica informazione che fa parte del United Kingdom, e il brano si intitola Dream Away. Questa, come al solito, è un'altra Radio Roma. Looking back, thinking about it, I'm really not that sure. Was I just imagining it as I backed out of the door? Then she sneaks in because she's lying back for more. Dream away, dream away, dream away, dream away. Will you kick me if I'm beginning to fall? I know the time is right to open up the store, but you don't really know what you're fighting for. Dream away, dream away to make it work. Comunicato mio comando che prega voi farmi sapere il luogo di Ponte di Barche. Dimmelo dunque. Prego non sprecare vostre parole per negare ciò. Aggiungo a quello che ho detto che se voi non mi comunicate il posto del Ponte delle Barche, faccio voi immediatamente fucilare. Vostra falsa divisa mi consente fare ciò. Spiacente. Esecutionskommando vorbereiten. Jawohl, zu Befehl, Herr Rittmeister. E stai buono. Scusi, permette un momento. Prego. Vacca boia. E allora? Come allora? Allora che? Va bene, domando, no? Che se volevo far ammazzare? Io dico. Aspetta un momento. Tu, mio fratello, fertig machen zur Exekution. No. Im Hof antreten. Penso noi avremmo deciso, è vero? Sì. E va bene, glielo diciamo. Generalschatzkarten.

to cure your ill, but I'm getting high. My heart never stopped him, with it on the top, there's nothing I didn't fail. And now I'm alone, I gotta have a home, my love never seems to fail. Well, I lost my way, I don't know if I can stand. Well, I'm back in the heart of the action. I'm back, yeah. Questo lavoro provo a dare un senso a tutto quello che avete udito finora. Convinti noi dell'Altra Radio Roma che la strada da perseguire per gli artisti è quella di licenze alternative alla SIAE. E dopo un periodo di sosta e di riflessione da parte nostra, è giunto il momento di riprendere in mano questo progetto in cui abbiamo sempre creduto e su cui vogliamo spendere il nostro tempo libero. Quindi un saluto a Mr. Brontolo, Mr. Cocot, Mr. Campo e tutti gli altri collaboratori dell'Altra Radio Roma. Mr. Gasperino ringrazia questo splendido sito e vi saluta con una formazione che proviene dall'Irlanda. Loro sono i Paradox e a me non resta che darvi un grosso bacio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Well, it's a sweet sense time with no solution.